di fragole, vino appassito spilli dalle unghie, il collo è un vaso trapunto di mandorle, sorrido perché provvedi ai miei bisogni, a volte esagerando mi ritrovo anche sbronzo d'ogni goccia perduta che la mia lingua prosciuga, d'ogni vapore al corpo che la tua testa esala, d'ogni fuga. Che mia traccia.